Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ad eccezione dei maturandi che si stanno preparando ad affrontare la terza prova e anche degli studenti della terza media che dopo l'Invalsi stanno terminando gli esami, gli studenti di tutte le altre scuole di ogni ordine e grado si godono le meritate vacanze. Felici e contenti e cambiati, non solo fisicamente, ma proprio anche mentalmente. Provate a pensare a vostro figlio all'inizio di quest'anno scolastico e guardatelo ora, è decisamente più grande, no? Più autonomo. A scuola ha imparato nozioni, ma immagino, e direi sono certa, ha maturato anche convinzioni, opinioni, abitudini, insomma diciamo una sorta di cassetta per gli attrezzi che lo aiuta e lo aiuterà a compiere poi scelte comportamentali utili per sé e anche per gli altri. Insomma, a scuola non si impara solo a leggere a far di conto, ma la scuola può essere ed è un luogo in cui imparare comportamenti e strategie utili e necessarie per crescere in modo sano nel corpo e nella mente. Allora, se vivete con un adolescente, restate e raccontateci come è cambiato e come è cresciuto in questo anno di scuola e che cosa lo ha aiutato a cambiare. 800 24 00 24. Insomma, facciamo un po' i bilanci. Sei sicuro che non vuoi che ti accompagni dentro? Mamma. Va bene, come per vuoi. Per favore. Didi. Buona giornata, focaccina mia! La 20th Century Fox presenta Diario di una schiappa, guida per sopravvivere a scuola. Non fate amicizia con i tipi strani. Volete vedere il mio neo segreto? C'è persino un pelo! Non seguite i consigli di vostro fratello maggiore. Ti faranno fuori comunque entro la fine. E in linea con noi abbiamo Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore all'Università di Milano. Alberto? Ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, per i genitori, e lo sai bene perché sei genitore anche tu, i figli non crescono mai, no? Sono sempre bambini, lo sono anche per me, le mie figlie che hanno 22 e 20 anni sono sempre piccole. In realtà loro cambiano, le mie sono donne a tutti gli effetti. Alberto. E in effetti crescono. Devo dire che noi genitori teniamo nei confronti dei nostri figli, indossiamo proprio un paio di occhiali che ce li fa un po' vedere come i nostri cuccioli e quindi abbiamo una percezione di quello che sono, di quello che fanno, di come crescono, molto modulata sul nostro essere mamma e papà. Poi magari vai a fare un colloquio con gli insegnanti e ti raccontano un figlio completamente diverso, per cui ti domandi, ma quello è mio figlio veramente? Quello di cui stanno parlando è quel cucciolo che io ho in casa tutti i giorni e con cui magari devo mettermi a litigare per mangiare un piatto di pasta al pomodoro o chissà che cos'altro. Direi che la scuola è un'esperienza fondamentale, proprio perché permette ai nostri figli di entrare in un sistema di socializzazione completamente diverso da quello delle relazioni familiari, che spesso sono invischiate da modalità affettive, da modi di stare insieme molto condizionanti. È molto più libero il figlio che si muove dentro al suo gruppo di amici, spesso si confronta con modelli anche comportamentali completamente diversi da quelli che apprende in famiglia e spesso la scuola tra l'altro gli può proporre attraverso alcuni docenti, alcuni progetti di prevenzione, nuove modalità di stare insieme, comportamenti e stili di vita alternativi a quelli che lui sperimenta a casa e che in molti casi sono molto vantaggiosi. Un esempio concreto, ci sono mamme che portano per la prima volta i loro figli all'asilo, cioè alla scuola dell'infanzia, magari hanno combattuto dopo lo svezzamento per 2 o 3 anni con i loro bambini per fargli mangiare 1 o 2 verdure e si sentono dire dalla maestra, suo figlio è bravissimo a mensa, mangia di tutto. È vero Alberto, e poi tu facevi riferimento proprio ai progetti di prevenzione che vengono fatti nelle scuole, che mettono in contatto il ragazzo con professionisti che lo aiutano a crescere, a diventare più competente. Penso che anche i tuoi figli abbiano frequentato questi progetti, che lasciano comunque il segno, aiutano a cambiare. Allora mi piacerebbe chiedere agli ascoltatori se il vostro ragazzo nella sua scuola ha frequentato e ha partecipato a un progetto di prevenzione. Alberto, ce ne sono di vari tipi, alimentari, per l'educazione sessuale. Esatto, più o meno su tutte le aree dei comportamenti e degli stili di vita. Spesso le scuole offrono progetti di prevenzione, quelli più popolari sono quelli che hanno a che fare con la prevenzione del tabagismo, la prevenzione dell'uso di sostanze ad azione psicotropa, l'educazione alimentare, la promozione dell'attività motoria. C'è poi un'area di cui i genitori spesso sono assolutamente bisognosi, che è quella dell'educazione sessuale. Moltissime volte le scuole si sentono chiedere dai genitori: per favore fate voi educazione sessuale ai nostri figli, perché noi non siamo in grado di farla. E allora oggi insieme a voi vorremmo proprio fare una sorta di bilancio, capire come quest'anno di scuola ha cambiato i nostri ragazzi, che cosa li ha aiutati a cambiare, magari hanno frequentato, hanno partecipato proprio ad un progetto che gli ha aperto un po' la testa. Alberto, intanto tu rimani con noi e invitiamo gli ascoltatori a chiamarci 800 24 00 24. Come sempre potete scriverci 349 238 6666, potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. E qua in studio con me, intanto che voi mi chiamate, io voglio salutare il professor Lelio Morricone, primario di diabetologia e malattia metabolica all'ospedale San Donato, al Policlinico San Donato. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. E insieme a lui abbiamo il piacere di avere il dottor Malavazzo, responsabile del progetto Servizio Dietetico e Nutrizione Clinica e Prevenzione Cardiometabolica al Policlinico San Donato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24, abbiamo due esperti in studio, parleremo di un progetto molto interessante. I vostri figli nel frattempo sono cambiati, come sono cresciuti, sono ingrassati, sono diventati più maturi, sono diventati più autonomi? Che cosa ha prodotto in loro questo cambiamento? Lo sappiamo che l'alleanza con la scuola e gli insegnanti è fondamentale. Parliamone. 800 24 00 24. Professore, ma voi quanto pesate? 95 kg. Ehi! E tu? Anch'io sono un disastro. 51 e mezzo. Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, dai. Professore, ma voi fate qualche dieta? Magari. Ma cosa intendi tu per dieta? La dieta del fantino, del pilota, messe cash, carsedallo, watch watch. Vacco, ma sei un vero e proprio dietologo. Quasi, quasi. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangia normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polimo, polivetti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, la cuve, micelli all'olio, carne di porco, soffitto. Professor Morricone, alcuni genitori noteranno, a proposito di dieta, ci sono bambini che hanno delle diete molto ricche, e alcuni genitori noteranno che il loro bambino è cresciuto in altezza ma anche un po' in peso, l'età, diventato un po' tondeggiante. L'età dello sviluppo e dell'adolescenza ha inevitabilmente questa caratteristica: l'organismo cambia, cresce in statura. Bisogna tuttavia che la giusta armonia e le giuste proporzioni, il giusto rapporto tra le masse muscolari e la massa grassa siano mantenute intatte, per far sì che l'organismo non corra il rischio soprattutto di accumulare grasso, la qual cosa evidentemente rappresenta un problema, tenendo conto che ormai la letteratura chiarisce in modo inequivocabile che purtroppo se si diventa grassottelli in età pediatrica o adolescenziale il rischio di rimanere grassi per tutta la vita è altissimo. Quindi questa è una fascia d'età in cui noi dobbiamo riporre un'enorme quantità di attenzioni. Dottor Malavazzo, ma sono davvero così sovrappeso i ragazzi? Perché solitamente quando li vediamo morbidi alle elementari si dice: beh, adesso che poi no, adesso che cresce si sfila. Si dice così, no? Sì, si sfila, è vero, però la fotografia che abbiamo nazionale è molto chiara. Abbiamo 23% dei nostri ragazzi che sono sovrappeso e arriviamo fino all'11% come prevalenza di ragazzi in obesità. È vero che è un'età evolutiva, come diceva il prof, quindi la speranza è che si assottigliano. Noi infatti in questo progetto molto complesso, oltre il peso e l'altezza, quindi vedere la loro crescita, quindi rassicurare anche i genitori e i professori che ci sia, oltre una crescita intellettuale, anche chiaramente fisica, quindi psicofisica, andiamo a misurare la circonferenza addominale. Ecco, bisogna misurare anche la circonferenza addominale, non solo degli adulti ma anche dei ragazzini. Non so se la lasceranno misurare, però abbiamo un valore di... da tenere? Guarda, ci sono dei valori che sono i cosiddetti cut-off per gli adulti, per uomo e donna. Nei ragazzi in realtà un vero cut-off non esiste. È sempre importante prenderlo all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno scolastico, quindi vedere l'evoluzione, perché fisiologicamente un pochino deve crescere. Sì. Probabilmente nei ragazzi già sovrappeso, obesi, questo valore si ferma o però diminuisce. Senta, lei mi ha dato una buona idea, sempre che loro si lasciano misurare. Sì, sopra la maglietta. Perché sopra la maglietta, sì, perché con insomma molta è un'età cautela. Molto delicata. Molto. Partono le iniziano le vacanze, sì. Loro sono già in vacanza. Beati può loro. Essere un'occasione per ristabilire un pochino alcune regole alimentari, per muoversi un po' di più, ma le vacanze sono anche un po' fatte per qualche trasgressione in più, no? È logico. Allora, non l'abbiamo fatto prima dell'inizio, all'inizio della scuola, facciamolo ora. Misuriamo la circonferenza addominale, certo, di nostro figlio e la misuriamo alla prima che riprenda a settembre. Ma e due tanto... consigli pratici, sì, sono muoversi di più, visto che poi una delle scuse più grosse è quella: ho troppi compiti da fare, devo stare a casa ore e ore a studiare, quindi fuori di casa. Una volta forse era il contrario, i genitori dovevano venirti a prendere, adesso ti devono cacciare di casa. E la seconda cosa, un buon gelato artigianale. Perfetto. No. Allora, voi siete tra l'altro andati a scuola a insegnare i bambini a mangiare bene con un progetto che ha dato ottimi risultati, si chiama IT, sì, che sta per Educazione Alimentare Teenagers. Sì. Intanto io continuo ad invitare gli ascoltatori a raccontarci come sono cambiati, adesso parliamo del cambiamento di peso fisico, ma sicuramente parleremo anche del cambiamento che i vostri figli hanno avuto grazie magari alla frequentazione di alcuni progetti come il progetto IT, che mette praticamente degli esperti a contatto con gli adolescenti, in questo caso perché vi siete occupati di ragazzi che frequentano la media scuole inferiore, medie, e gli aiutano a capire che c'è dell'altro e c'è, ci sono, no, delle strategie che gli permettono di stare bene con gusto. In che cosa consiste questo progetto? Il progetto è multicomponente, quindi ha diversi strumenti che vengono usati per arrivare appunto ai ragazzi, oltre ad andare nelle scuole direttamente noi a fare lezione con loro, lezione molto informale, quindi una partecipazione sia da parte nostra, tutte le colleghe che lavorano a questo progetto, numerose, e i ragazzi, gli insegnanti. Quello che abbiamo aggiunto è abbiamo così aiutato i ragazzi a monitorare il loro movimento, quindi con l'uso dei pedometri, dei contapassi. Quindi li avete dotati, sì, ogni ragazzino. Sì. Questi gadget che buona... loro sono ma sempre gasati è una buona quando idea, li regaliamo. Perché noi anche come genitori potremmo dotare, perché io vorrei prendere qualche spunto dal vostro progetto, certo, e trasferirlo nella quotidianità. Alberto, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Eh? Credo tra l'altro che il contapassi per i ragazzi abbia il doppio vantaggio: da una parte di poter essere vissuto come un gioco, dall'altra parte proprio come un sistema di automonitoraggio, e siccome a loro piace molto confrontarsi con se stessi e superare un po' i propri limiti, diventa automaticamente un sistema che promuove l'evoluzione dei comportamenti motori. Si confrontano. Quindi, allora, tra di abbiamo loro già dato due consigli: il centimetro, misuriamo la, sì, pancia, e regaliamo a nostro figlio, a nostra figlia, un contapassi. Se lo agganciano al jeans. Certo, diamo anche qualche numero, almeno minimo 10.000 passi al giorno. Anche per che i spaventano bambini all'inizio, ma è una mezz'ora di camminata, niente di più. Quindi il minimo. E poi si cambiano, professor Morricone, si cambiano un po' le cose nel piatto. Si cerca di dare delle indicazioni che naturalmente non devono assolutamente assumere il connotato di obblighi o di diciamo di minacce: se non fai così stai male, ma occorre veramente far comprendere che il cambiamento delle proprie scelte è un processo attivo, è un processo critico, è un processo che può essere messo in atto soprattutto se si forniscono questi ragazzi appunto di mezzi di conoscenza e di mezzi critici, e in questo senso si promuove un cambiamento e si suggerisce un modo un po' nuovo, un po' diverso di alimentarsi, e i ragazzi si fanno motore di portare queste istanze anche all'interno della famiglia. Per esempio, noi diciamo ai nostri ragazzi: adesso a accompagnate i vostri genitori quando vanno a fare la spesa e insegnate loro che cosa mettere nel carrello, spiegateli che magari è meglio evitare cose che contengono zuccheri raffinati, è meglio evitare cibi che hanno una quota lipidica, cioè in altre parole troppi grassi, una quota lipidica eccessiva, e invece suggerite l'impiego di proteine sane, proteine alternative alla carne come quelle del pesce ma soprattutto quelle dei legumi, utilizzate cereali non raffinate, alimenti integrali e soprattutto, come sempre, mangiate tanta frutta e tanta verdura. Insomma, cambiano loro attraverso questi progetti e portano a casa il cambiamento e riescono a produrre anche dei cambiamenti in famiglia. A proposito di cambiamenti, vediamo come sono cambiati i vostri figli. 800 24 00 24, con la testimonianza di due ascoltatori. Abbiamo Daniela della provincia di Genova e Umberto della provincia di Milano. 800 24 00 24, confrontiamoci. Buongiorno Daniela, benvenuta. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Allora, io sono la mamma di Lorenzo, sì? È un ragazzino che ha frequentato adesso la seconda media, 12 anni e mezzo, e proprio nella sua scuola, nella sua classe, durante tutto l'anno scolastico hanno partecipato a un progetto che si chiamava Unplugged, che era praticamente focalizzato contro le dipendenze sia da tabacco che da droghe, poi contro l'assertività, quindi saper affrontare le situazioni, anche quelle più problematiche, senza stress. Ed è stato un progetto molto interessante perché Lorenzo me ne ha sempre parlato e mi diceva che appunto era progettato in questo modo, cioè in classe si dividevano in gruppi, c'erano delle situazioni proposte, sì. Poi ogni gruppo valutava come affrontare quella determinata soluzione, dopodiché i gruppi si confrontavano le varie soluzioni, strategie che avevano trovato, si confrontavano, ne parlavano poi con i professori, sì. Ed è stato un percorso molto bello. Che Daniela, Lorenzo, anche lei come il suo marito, come genitori, immagino vi sarete sentite supportate e aiutate da queste iniziative. Sì, certo, perché l'alleanza è fondamentale. Tante volte noi genitori noi non dobbiamo delegare, ma facendo rete con gli insegnanti riusciamo veramente a crescere i nostri ragazzi. Umberto della provincia di Milano, grazie Daniela, e poi abbiamo Cristina. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, Umberto. Buongiorno, due cose velocissime. Una sull'alimentazione che mi è venuta così ascoltando gli ultimi minuti. Io ho separato, ho due figli, non li vedo tantissimo. Quando sono con me, tre cose, ho sempre cercato di insegnarli. Chiarezza, sì. Competenza, coerenza. Per carità. La colazione. Sì. Io mi alzo un po' prima di loro, preparo una tavola imbanditissima, coloratissima. Con tutto quello che si può, frutta, cereali, yogurt, tutti. Sì. C'è qua il dottore Malavazos che fa bravo. Però la cosa che io ho tempo sempre impiegato bene, gli spiego perché devono fare colazione e soprattutto coerenza. Sono io il primo a fare una colazione abbondante e variata. Anche a me capita a volte non aver appetito, mangio di meno, ma non esiste che mi alzo dal tavolo al mattino senza aver fatto un'adeguata colazione. Bravo. Per i miei figli, il piccolo ha 14 anni, il grande ha 17, gli ho sempre spiegato che il loro cervello è una macchina perfetta che ha bisogno di acqua e di sostanze nutritive. Se non gliele diamo al mattino è come avere una Ferrari. Umberto, senza benzina. Lei parla come un libro stampato, esatto. Quasi come un esperto di essere benessere. E poi qual è il secondo? Quindi colazione. L'altra cosa che era sulla la crescita di sì. Questi ragazzi, questo vale per il più grande, che l'anno scorso a 16 anni, a gennaio aveva 5 materie gravemente insufficienti, al punto tale che avevamo valutato insieme anche al preside, sì. Alla psicologa che lo segue, di fargli cambiare scuola, fare liceo scientifico. Sì. Invece, pensando che fosse una cosa troppo alta, un livello troppo alto. E poi per realtà poi dovrei chiedere ad Alberto Pellai cosa è successo. Eccolo, mi piace lei, Umberto. Perché, Alberto, cosa è successo? Perché in realtà poi non so se sono stati colloqui con gli insegnanti, se sono state il fatto che gli ho fatto capire che anche in un'altra scuola avrebbe dovuto comunque studiare. se poi lui è cresciuto, sta di fatto che quest'anno, dopo quel disastro dell'anno scorso, è chiuso con 7,5. Bravo, ma che bravo ragazzo. Alberto, vedi, diamogli fiducia. Sì, io credo che poi spesso in queste evoluzioni nei percorsi scolastici ci sta proprio un processo di maturazione del ragazzo, che quando fallisce in molti casi è perché vive la scuola come qualcosa che gli viene messo dentro dal di fuori, cioè una cosa che deve fare per mamma e papà. Quando invece poi improvvisamente fiorisce, quindi ha successo, è perché incastra, integra la scuola nel suo proprio, nella sua identità, nel suo essere una persona che decide di fare della scuola uno strumento di crescita e di affermazione di sé. Abbiamo i mercati, adesso guardo Filippa Oreggis, posso passare Cristina? Cristina, buongiorno. Buongiorno, ci chiama dalla provincia di Torino. Io sto rischiando le ire di Filippa Oreggi. Vorrei chiederle una sintesi rapidissima. Rapidissima, due ragazzi, uno di 18 anni, praticamente fra i 12 e i 13 anni obeso, adesso un filiforme praticamente, perché 1,80 m, 72 kg. Il secondo, stessa identica cosa, non vuole stare a dieta perché vede le fotografie del fratello alla sua età e logicamente mi dice: perché devo stare a dieta? Perciò non so veramente come comportarmi. Perché devo stare a dieta? Tanto poi mi trasformo d'incanto in un bronzo di Riace come mio fratello. Beh, non c'ha tutti i torti. Cristina, resti con noi. Mercati, meteo e poi di nuovo insieme. 800 24 00 24. Guardiamo i nostri figli. Quando hanno iniziato quest'anno la scuola? Adesso che l'hanno finita, come e dove sono cambiati e chi li ha aiutati a fare questo cambiamento? Essere e benessere. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè, i capelli sono di zucchero filato, ha le braccia di candito, beve solo malvasia. Come cambiano i nostri ragazzi? Come sono cambiati? 800 24 00 24 e riprendendo lo spunto della nostra ascoltatrice, due figli, lei il primo l'ha definito obeso, diciamo sovrappeso, e poi si è sfilato, e il secondo genito non vuole stare a dieta, anche se secondo la mamma ne avrebbe bisogno, perché vedendo il risultato, la magia del fratello, dice: ma perché? Dottor Malavazzos. Sì, due cose, sono d'accordo con mi alleo con il ragazzo. Quindi, bravo, questo no, ci dieta, piace. No, non dieta. Va bene. Due cose, il fratello più grande magari si muove di più, quindi magari avvicinarsi a un dispendio energetico maggiore, e la seconda cosa invece per i piccolini e anche per i grandi, guardare cosa c'è dentro casa, cosa finisce dentro casa, cosa c'è nel frigo, cosa c'è sulla dispensa, quindi creare un ambiente alimentare domestico più salutare. Questo riguarda tutti, se no sembra che il ragazzo deve fare delle cose separate, due non padelle, possiamo, due cose, certo. No, tutti uguali. Chiaramente muovendosi di più. Perché l'ambiente è fondamentale. L'ambiente circonda i nostri ragazzi e inevitabilmente certe volte addirittura li costringe a fare scelte non del tutto consapevoli. E quindi, al di là del fatto che è corretto ribadire che in questa fascia di età la parola dieta è una forzatura. Sì, non ci dovrebbe neanche essere per gli adulti, è un nuovo stile alimentare. Noi dovremmo lavorare per dare consapevolezza, per insegnare stili di vita differenti e naturalmente anche per suggerire delle modalità nuove per scegliere i nostri alimenti. Infatti il progetto IT, quello di cui abbiamo parlato in apertura, questa educazione alimentare teenagers, bonifica anche l'ambiente in cui vive il ragazzo. Bonifica l'ambiente scolastico, dove alla fine dei conti noi, come dicevi tu Nicoletta all'inizio, i nostri ragazzi passano tante ore a scuola. Certo. Quindi andare a educare, stimolare, va bene fino a un certo punto, perché poi nell'orario dell'intervallo, tra un'azione e l'altra, questi ragazzi, se si trovano in un ambiente non dal punto di vista alimentare educato, vuol dire pensato. Certo. Quindi se trovano i cosiddetti i distributori, le vending machine che distribuiscono e possono vendere cibo tra virgolette, spazzatura, quindi con un alto contenuto calorico ma privo di sostanze nutritive. Cioè, i figli ci guardano e imparano da noi, certo, e dal nostro esempio, come ricordava il nostro ascoltatore Umberto prima, ma anche dall'ambiente, non respirano l'ambiente la realtà è diversa, che li circonda. Anche perché, se posso aggiungere una cosa molto semplice, è ovvio che il nostro intervento che prevede il cercare di dare dei messaggi, consumate cose sane, eccetera, poi non può scontrarsi col fatto che questi ragazzi, appena hanno sentito una cosa, poi si trovano di fronte ad una realtà che è esattamente l'opposto. Quindi abbiamo detto, qui dobbiamo intervenire. Un bel progetto, ce ne sono diversi, sì, perché certo, ad esempio alla scuola elementare Leopardi di Modena, noi genitori, ci scrive Mario, insieme al maestro abbiamo adottato il progetto La frutta nella scuola, frutta al posto delle merendine per 2 giorni alla settimana, i bimbi contenti e anche noi. Tra l'altro il progetto ITE è promosso dal gruppo ospedaliero San Donato Foundation, e qui con noi in studio Marco Rotelli, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Che nel gruppo ospedaliero San Donato si occupa dei progetti speciali, uno splendido lavoro. Che cosa vi ha spinto e cosa vi ha convinto proprio a investire forze ed energie in questo progetto? Io direi che partiamo dal panorama attuale. Abbiamo una riduzione delle risorse che sono scarse e dei bisogni in aumento. Quindi, sì, quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono aumentare le risorse scarse o ridurre i bisogni della nostra popolazione, e ridurre nel lungo periodo, oppure non soddisfare parte dei bisogni che sono in aumento. Ridurre i bisogni nel lungo periodo. Come? Con la prevenzione. Quindi noi sosteniamo questo progetto IT perché? Perché si tratta di prevenzione primaria verso quelle patologie legate a sovrappeso, obesità e malnutrizione per eccesso. Prevenzione primaria che si fa su soggetti, quindi sani, di modo a sensibilizzarli e ridurne le probabilità di contrarre queste patologie. Quindi voi arrivate alla fonte, avete detto, giusto? Esatto, esatto. E parlavamo di ambiente, voi nell'ambiente avete un po' collocato dei distributori di prodotti freschi, proprio per permettere ai ragazzi di avere a portata di mano proprio degli alimenti che rientrassero in questo concetto di un'educazione varia, gustosa, equilibrata e sana. Quindi al posto delle merendine voi che cosa avete messo? Beh, praticamente cosa abbiamo? Abbiamo promosso l'Italia, la qualità italiana e... Mi piace molto. La qualità italiana è sana, cioè sì, la nostra base, la nostra fonte, siamo partiti proprio dall'origine. Quindi, cosa succede? Abbiamo nei nostri distributori Tarallini, Follini e Gressini solo con olio extravergine di oliva. Abbiamo poi frutta e verdura fresca e di stagione, grazie di MDC, e per quanto invece riguarda le merendine, come le nostre merendine classiche, parliamo, sì, di barretta al cioccolato, magari qualche dadino di frutta. Ecco, la barretta al cioccolato è 70% fondente, il dadino di frutta, sì, è solo concentrato. Tutti questi piccoli sfizi, diciamo, ma verso qualcosa di naturale, sano e italiano. Tra l'altro, da cosa nasce cosa, e avete praticamente trasferito un po' anche questo concetto in ospedale. Io l'altra volta ero in un ospedale, mi sono trovata in un ospedale per 9 ore in un pronto soccorso, per fortuna è andato tutto bene, ma mi guardavo in 9 ore, ti viene voglia di, certo, bere qualche cosa, certo, o di mangiare qualche cosa, e notavo proprio che in questo grande ospedale torinese c'erano tralli, tutte merendine, non c'era alternativa che quello che viene, che voi considerate e chiamate un po' cibo spazzatura, non c'era, non so, una mela o una merendina alternativa. Poi, per carità, uno mangia quello da che vuole, da noi trovi la mela. Invece trasferito questa cosa anche in ospedale, quindi, esatto, scuola e ospedale. Esatto, prima siamo partiti dalla scuola per vedere un po' la reazione della la popolazione. Scuola sì, Alberto, bisogna... secondo te tutte questi interventi che vengono promossi a scuola con i preadolescenti funzionano, hanno delle caratteristiche particolari per funzionare? Qual è il segreto, la ricetta del successo? Ne abbiamo illustrato uno che tra l'altro ha ricevuto anche dei premi. Sì, quest'anno NutriMe hanno apprezzato questo progetto, hanno insignito di questo bellissimo premio. Quindi anch'io sono stata premiata da NutriMe. Sì, sì, sì. Siamo quasi colleghi di premio. Alberto, secondo te qual è il segreto del successo? Ma nel lavorare con gli adolescenti è molto importante che chi fa prevenzione li veda non solo come oggetto di un intervento, cioè soggetti che devono imparare da un adulto che sa tutto e loro devono perciò come bambini stare alle regole dell'adulto, bensì devono essere trasformati proprio in protagonisti. Assolutamente, per cui le cose sì. che funzionano molto bene in prevenzione con gli adolescenti sono quelle dove i ragazzi si sentono prima di tutto accolti, ascoltati, hanno voce in capitolo, diventano protagonisti del percorso di prevenzione, costruiscono magari loro la campagna di prevenzione, lo slogan di prevenzione e poi per in quasi tutte le linee guida internazionali viene sempre invitato chi gestisce progetti a usare anche la metodica dell'educazione tra pari, cioè quando un adolescente ha ricevuto un buon messaggio di prevenzione, renderlo lui stesso attore protagonista della prevenzione con altri suoi compagni e quindi mediatore del messaggio che gli sembra significativo per la tutela della salute e del benessere. Senti Alberto, tra l'altro noi dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico, non voglio tirare troppo la corda, ma le neuroscienze e gli enormi progressi che sono stati fatti dalla ricerca nello scoprire come funziona il cervello degli adolescenti hanno fornito qualche indicazione per coinvolgere ancora meglio e direi con più efficacia i ragazzi nella prevenzione a scuola? Sì, le neuroscienze ci hanno insegnato che tra i 13 e i 16 anni in particolare c'è una zona del cervello degli adolescenti che è la zona dei lobi frontali, che è proprio una sorta di zona in sviluppo e in formazione. È la zona tra l'altro deputata alle funzioni più complesse come la risoluzione di problemi, prendere decisioni, è quella zona che i ragazzi dovrebbero mettere in gioco di fronte a un comportamento a rischio quando devono decidere se lo agisco oppure lo evito per autotutelarmi. E allora la prevenzione potrebbe essere, così come indicato anche dall'OMS, una sorta di laboratorio e bodybuilding emotivo e cognitivo che rinforza enormemente le funzioni dei lobi frontali e che conseguentemente mette i ragazzi poi nelle condizioni di poter fare le scelte migliori per la loro vita. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati insieme. A proposito di progetti che aiutano i nostri figli a crescere e a fare delle scelte competenti, ho in linea il dottor Roberto Boffi. Buongiorno dottor Boffi, il nostro dottor antifumo. Buongiorno. Responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Boffi, anche voi siete andati nelle scuole e per convincere e educare i ragazzi a non iniziare. Sì, si è sempre ritenuto fino a poco tempo fa che andare a fare degli interventi di prevenzione nelle scuole risultasse poi alla fine poco efficace. In realtà abbiamo pubblicato recentemente insieme a dei colleghi toscani, in particolare il dottor Di Paco di Volterra, una nostra ricerca su più di 1300 ragazzi delle scuole che sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo aveva eseguito un programma di prevenzione basato su incontri informativi, anche sul gioco, sull'interattività, incontri con personaggi noti, e l'altro gruppo invece non aveva fatto nulla, il cosiddetto gruppo di controllo. Ebbene, è venuto fuori che è stato utile questo lavoro capillare nelle scuole, in quanto il gruppo che aveva fatto questi incontri aveva poi iniziato a fumare solo nel 4% dei casi contro il 14% dell'altro gruppo, per cui lavorare nelle scuole cercando se possibile di comunicare usando il linguaggio dei ragazzi può essere efficace. Quindi bisogna seminare, non è anche nelle scuole primarie, nelle medie inferiori, non bisogna aspettare che il ragazzo diventi grande, bisogna fargli capire le cose prima. Anticipato ormai l'età dell'inizio del fumo negli ultimi anni, negli ultimi decenni, e quindi non bisogna aver paura di andare a parlare queste cose anche agli ultimi anni delle elementari o alle medie. Grazie dottor Boffi per essere stato con noi, buona giornata. Altrettanto, grazie. Allora 800 24 00 24, avete chiamato, molti di voi Alberto ci stanno dicendo ma parlate dei grandi e dei piccoli, e quindi ti dovrò chiedere di tornare perché vogliamo fare una puntata tutta dedicata ai piccoli, Alberto? Sì, come diceva il dottor Boffi, tra l'altro, quando uno ha 11 o 12 anni mette in atto un comportamento a rischio, in realtà è perché ha imparato a 7, 8, 9 anni a costruire dentro la sua mente le attitudini positive che lo portano verso quel comportamento. Allora è molto importante fare prevenzione primaria in età precocissima, costruendo le attitudini positive verso i comportamenti salutari. Senti, e prendiamoci un appuntamento allora, Alberto, per parlare di piccoli. Martedì ti va bene? Va bene. Martedì, sarò. Allora torna Alberto Pellai, un appuntamento preso in diretta, parleremo dei piccoli, ma io voglio parlare con il dottor Malavazzos per in chiusura di questo piatto in forma che ci racconta e ci dà delle indicazioni per preparare il piatto dell'estate dei nostri ragazzi. Il piatto in forma è proprio dato questo nome, in forma, proprio dai ragazzi, quindi l'interazione in questo progetto è stata protagonista, quindi come i ragazzi protagonisti. Questo piatto è molto semplice, diviso in quattro parti, oltre alla frutta e alla verdura abbiamo un pochino messo in evidenza il fatto di usare cereali integrali e proteine che derivano un po' di più dal pesce e dai legumi, quindi il denominatore comune del piatto sono le fibre. Questo ha permesso di ottenere degli ottimi risultati dal punto di vista scientifico, anche noi questo progetto caso controllo. Sì, avete quindi ottenuto dei risultati molto interessanti, professore. I risultati del progetto sono assolutamente per noi siete veramente fantastici, molto. Li abbiamo presentati alla comunità scientifica internazionale a Boston adesso in aprile, perché anche questo è stato uno studio fatto con rigore scientifico, quindi con un gruppo di controllo, ci sono ovviamente aspetti scientifici insomma, su cui adesso scuola, non ci possiamo soffermare, professor Morriconi, però siamo molto contenti e questo è uno stimolo ulteriore per andare avanti, sempre più avanti. Continuità nel tempo. Allora, dato che molti di voi mi hanno scritto e a telefonato, io vorrei approfittare della competenza e della disponibilità dell'equipe del professor Morricone e del dottor Malavazzos, che sono pronti a rispondere alle domande che voi manderete a esserebenessere@radio24.it o sul nostro profilo Facebook, così scriveteci e gli esperti rispondono. Vi ringrazio, complimenti te, per Nicoletta. Il progetto, professore, grazie, dottor Malavazzos, Marco Rotelli, grazie per essere stato con noi per questa bella iniziativa. Vedi, la scuola insegna e le esperienze belle che nascono nella scuola finiscono negli ospedali. Grazie a voi, grazie per averci seguito. Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, devo dire abbastanza sorridente oggi, sì, vabbè, no, proprio sorridente no, ma sì, adesso un po' sereno direi. Laura Vanossi in redazione, buon fine settimana, buon weekend, noi ci sentiamo lunedì, scrivetemi e seguitemi. Essere e benessere.